Vittore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare. Non sono che un povero negro ed una cosa ti chiedo, pur se la Vergine bianca fammi gli angioletti negri. Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se sono solo negri. Lo so, dipingi con amor, perché disprezzi il mio color se vede i bimbi negri. Dio sorride loro. Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo, e so che tiene d'accanto tutti i negri che hanno pianto. Quando dipingi le chiese, là fra le candele accese, fra gli arcangeli ti prego, metti un angioletto negro. Il mio color se vede i bimbi negri, il Dio sorride loro. Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo, e so che tiene d'accanto tutti i negri che hanno pianto. Quando dipingi le chiese, là fra le candele accese, fra gli arcangeli ti prego, metti un angioletto nero.